Ah! Ma da dove è salito? Come lo raddoni? Mi sono... Ho capito il ragionamento. Come il torero, dicevi tu. Sono forte, dai, camioni, sono forte. Però se fossi costretto. C'è un mio marito per il camione, io me la faccio. Per forza. Ma lui se la... Guarda, ha fatto la scala. Io penso che lui ha fatto la scala. No, in là. Muchas gracias. De nada. Tú no sabes hablar. Porque para él, si es italiano y español, él es eso. ¿Cuándo arriba de cuá?